Bentrovati a Suoni Paralleli, un programma di approfondimento sulla musica a tutto tondo in onda sulle frequenze di Radio Città Fucico 103.1 FM, un salotto convivio tra musicisti, addetti ai lavori e non solo, rivolto a soddisfare le curiosità che girano intorno al mondo della musica. Benvenuti, chi vi parla è Antonino Barresi. Andrei subito oggi a lanciare il nostro primo ascolto, che un po' riprende il tema, il filo conduttore che del nostro programma, dei nostri suoni paralleli, che è sicuramente quello del mix tra le culture musicali diverse e anche, perché no, dei generi musicali diversi. Abbiamo spesso parlato delle produzioni della musica elettronica degli ultimi producer contemporanei e del loro utilizzo all'interno delle loro produzioni di tutti i suoni della world music e di come l'incontro tra le tante sonorità provenienti da ogni parte del mondo spesso e volentieri portano alla produzione di veri e propri generi musicali nuovi. In questo caso partiamo subito andando ad ascoltare una delle produzioni che negli ultimi anni ha miscelato al meglio il tango proveniente dall'Argentina e l'elettronica di ultima generazione. Questa è Gotham Project, questa è Tango Santa Maria. Buenos Aires. Buenos Aires, el puerto de Santa María del Buen Aire. E ancora benvenuti e bentrovati a Suoni Paralleli, un programma di approfondimento sulla musica tutto tondo in onda sulle frequenze di Radio Città Fucico. Chi vi parla è Antonino Barresi e con me ospite oggi un graditissimo amico musicista che, a proposito del concept di Suoni Paralleli e del filo conduttore di cui parlavamo prima, a proposito del mix di culture, saprà sicuramente darci il suo punto di vista. Benvenuto a Suoni Paralleli, Mr. Tiago D'Azibao. È davvero un piacere averti qui con noi. Benvenuto, Tiago. Bella, buonasera a tutti. Ciao, allora, guarda, noi abbiamo davvero molto piacere di averti qui perché spesso il filo conduttore di questo programma radiofonico, l'abbiamo detto da subito, è proprio questo interplay che c'è tra le culture musicali diverse e questa miscela che c'è tra queste culture musicali diverse e alcune produzioni che spesso spaziano negli ambiti anche della musica elettronica. Mi piace pensare spesso che i nostri ospiti siano un po' dei ricercatori, spesso e volentieri invitiamo proprio artisti come in questo caso tu, che hai da pochissimo pubblicato un tuo lavoro da solista, un tuo EP. Diciamo che la cosa che ci interessa molto è avere il parere di chi poi effettivamente da ricercatore nella produzione di un EP personale va a compiere questa miscela, questa ricerca all'interno sia delle sonorità della world music sia delle all'interno della sonorità della musica elettronica. Tu, ti chiedo subito, Tiago, come ti sei trovato? Quanto credi che poi sia stato importante il fatto di contenere, diciamo, i linguaggi che provengono dalla world music all'interno della tua musica elettronica, all'interno del tuo album? Pensi che sia molto importante come influenza o pensi che in questo momento l'elettronica e la musica digitale in qualche maniera tenda ad appiattire? No, credo molto nel valore della musica popolare come, insomma, modello di confronto per chiunque comunque si approccia alla musica in generale, no? Come musica che comunque ti forma, ti cresce, che assimili delle strade, che vieni a conoscere attraverso comunque le radio, che vieni ad ascoltare, vieni in contatto direttamente con la musica a livello soprattutto di strade, come magari succede in Brasile con il carnevale, quindi che lanci delle mode musicali direttamente portando il suono alla gente nelle case live. E quindi a livello di confronto con la world music nel mio EP mi sono ispirato più alla musica brasiliana soprattutto, ma anche alla musica africana, alla musica dell'Angola, alla musica del Capo Verde, alle nuove vertenti che stanno arrivando anche in Portogallo come per esempio il Kuduro o la musica ragga africana in generale, la musica di Salvador de Bahia, e la musica di Pernambuco, no? Varie regioni che comunque alla fine hanno, certo, formato il mio modo di ascoltare musica. Beh, sono tutti generi musicali che poi fanno parte proprio del background del brasiliano standard a livello artistico musicale, mi sembra di capire. A livello artistico musicale tieni un po' il DNA tipico. Ci sono però delle scuole diverse, no? Diciamo, certo. A Recife comunque c'è stata più un'influenza di Chico Sainz negli anni 90, che ha creato il movimento per esempio Mangue Beat, e quindi mischiando ritmi africani con la musica psichedelica americana e con la musica elettronica insieme, no? Questo, certo, afro-ciberdelico, no? Questo movimento di Recife che ha rivoluzionato un po' le cose, è stato un po' come Rage Against the Machine nel nord-est del Brasile. Certo, certo. Sì, è stato uno spartiacque che poi ha lanciato comunque molta musica underground, che magari ha poche visualizzazioni, però comunque lascia un'impronta più forte, perché senti che è fatta da gente dall'altra parte del mondo, magari a San Paolo, appunto a Recife, a Salvador, che ha la tua stessa cultura e si sta continuando a vivere, diciamo, no? Quella cultura. Assolutamente. Mentre spostandomi qui in Italia, comunque ho avuto modo magari di spaziare verso la musica africana, di ascoltare diversi generi musicali, passare anche attraverso il jazz, passare attraverso Sono, sono davvero molto curioso e credo che per quello che riguarda Suoni Paralleli come trasmissione su Radio Fucico andiamo esattamente a cercare quello che è il nostro argomento, quello che è il nostro concept, andando proprio ad ascoltare, io direi a questo punto, uno dei primi brani estratti da Clan Festino, che è un disco che ha visto la luce da qualche mese e che, dimmi tu, come vogliamo presentarlo come lavoro discografico, come produzione dal punto di vista del tuo momento artistico? Clan Festino è stato il coronamento di una decina di anni in cui suonavo comunque solo il pandeiro e mi capitava di fare l'MC a concerti di vari amici e quindi di fare alcuni pezzi, comunque di intervenire cantando canzoni brasiliane e alcune, no, delle cose che scrivevo che però non avevo mai registrato per tanti anni, e sono stati un po' rimessi insieme questi comunque momenti passati in Spagna, in Brasile, in Belgio, in cui ho avuto modo magari di conoscere gente di Bologna, appunto a Bruxelles, che è gente con cui non ero molto stato molto in contatto qui a Bologna. Certo. Ha fatto un po' da fucina in qualche maniera. Esattamente, città. Quindi comunque è un EP di 5 canzoni, però diciamo è stato cucinato un po' in giro per l'Europa. Certo. Molto speziato comunque anche dalla collaborazione di vari DJ comunque importanti. Bene, bene. Vogliamo citarne qualcuno che dice, cioè, sì, salutiamo sicuramente, perché molto sicuramente. Dell'underground bolognese, quello puro, no? Sì, salutiamo DJ Grissino da Torino, DJ Farrapo, DJ Luigi, che è stato anche ospite, Paul Kruner, certo, e anche lo studio di Venti Produzione qua di Bologna. Bene, bene, salutiamo tutti. Andiamo adesso a far ascoltare, direi, il primo brano è stato da Clan Festino. Ancora benvenuto a Suoni Paralleli, Mister Tiago da Zibao. Arde lo fuoco in giallo sale in tu calurusu, cilu mundo gira mundo prima o poi de qua i tocca passà. Da Zibao sbarca lo salento con lo pizzico le sambar, decore tarantula da punnano in Francia e glice in portugnolo in salentino, tutta la verità le segnate in un poco di vino. Punno massiccio sul ritmo dello tamburo, punno sullo tamburo come uno passa ricchio, punno e vado a camminare per fare la musica con lo tamburo. E stadio buoni vai giù, stadio buoni. Tengo il derecho de ser feliz, je suis da zi freelime, don limon cheri. Tengo il derecho de ser feliz, je suis da zi freelime, don limon. Rap, citrico, limone libero, freelime, grasse risate con grissino, antitappa, super vai che vai. Salate in giallo, ispirazione, un, due, tre, c'è accazione, fischiettando una canzone, uno strano maggiordomo. Balla nel dazi, bodromo, maracca, tu suono del tuono, della città di dove sono, ergo suono con il microfono a cono, rime dono, donne amo, eravamo quattro amici, adesso già non ci contiamo. Un abbraccio a tutta la community, fuck reality TV show, fuck celebrity, one love one family, freedom, peace, Africa, unity. Non importa come, l'importante è che comunichi, come con te, con sé, con Luna, Marte, Giove o Jupiter. Tu bevi mai se bevi Jupiter, afrodisiaco, ginger, e lì tu un juice more fire. Pandero, stal connect, samurai, mariachi, tiger, architetti della rima senza tessere te. Sono ragnatele sul beat come spider, rastaman, in the cyberdelica connection, multiculti tutti frutti, multietnico, afro Cyberdelica connection, multiculti tutti frutti multietnico, afro cyberdelica connection, multiculti tutti frutti multietnico. Tengo il derecho de ser feliz, je suis dazi freelime, don limon cheri. Tengo il derecho de ser feliz, je suis dazi freelime, don limon. Tengo il derecho de ser feliz, je suis dazi freelime, don limon cheri. Tengo il derecho de ser feliz, je suis dazi freelime, don limon. I have a dream. Sogné con Luther King, guerrilla, imboscada, estrategia, tutte ho marketing. Da locura, cura o non cura, quanto vale a dittatura? Da locura industrializzata, suffando una pirateria, un bascar pirata. Non meglio da che osada cada cada, che io signa sen cocada, canta poco in bolada, un dia vai. Rap e produsi, dentro da periferia, proibido si e produsi. Mi ta modifica, posifica, io fere se sarà chi dà. Chi dà para vive sen da, sarà chi a tu, chi dà para vive sen do. Io non so contra ninguém, so che ero ben si fica contra che ti sei fazer uma guerra o vou além porque adoto amor, don de quem tem don de amar, pode curar do mundo essa imensa dor. Tengo il derecho de ser feliz, je suis dazi freelime, don limon cheri. Tengo il derecho de ser feliz, je suis dazi freelime, don limon. Tengo il derecho de ser feliz, je suis dazi freelime, don limon cheri. Tengo il derecho de ser feliz, je suis dazi freelime, don limon. Don limon. Don limon. Questa era Free Lime, estratta dal CD Clan Festino di Tiago D'Azibao, ospite oggi qui a Suoni Paralleli. Ancora benvenuto Tiago, ancora benvenuti a tutti gli ascoltatori nel nostro programma. Un abbraccio da dietro a tutti. Dai, davvero Tiago, è davvero un piacere averti qui. Il nostro programma che parla di nuovi generi musicali, dell'approfondimento sulla musica, diciamo, che viene da diverse parti del mondo, del come spesso le influenze della world music si intreccino con i ritmi e le provenienze, diciamo, elettroniche di ultima generazione, degli ultimi campioni. Abbiamo appena fatto un piccolo excursus, no, sui tuoi, diciamo, sulle tue parti di DNA, sui tuoi ascolti. Io direi a questo punto di andare un attimino a scavare nel discorso Brasile, andando anche a levarmi un po' uno sfizio. Voglio far ascoltare anche io uno dei miei artisti preferiti brasiliani, che è Tom Zé. Avevo l'occasione di in questo caso di collegarmi a Tom Zé grazie al fatto che ne parleremo tra poco. Abbiamo già parlato delle tue influenze e di quanto la musica brasiliana ti abbia influenzato. Adesso ne continueremo a parlare, sempre qui a Suoni Paralleli, sempre a Radio Città Fujiko. Intanto ci ascoltiamo questo super brano di Tom Zé. Questa è Chique Chique. We'll be right back. Eu vi o cego lendo a corda da viola, cego com cego no duelo do sertão. Eu vi o cego dando nó cego na corda, e cego preso na gaiola da visão. Pássaro preto voando pra muito longe, e a cabra cega enxergando a escuridão. Eu vi a lua na cacunda do cometa, vi as abundas e o folha sacumbá. Eu vi o raio todo céu todo corisca, vi o triângulo lindo lindo faísca. Vi a galáxia branca na galáxia preta, eu vi o dia e a noite se encontrar. Eu vi o pai, eu vi a mãe, eu vi a filha, vi a novilha que é filha da novilha. Eu vi a réplica da Bíblia, na invenção do cantador de cinza. Vi o cordeiro de Deus no mundo vazio, fiquei com frio, te pedi pra me esquentar. Chegando a escuridão, eu vi a lua na cacunda do cometa, vi as abumba e o folha zabumbá. Eu vi o raio quando o sol todo corisca, e o triângulo lindo lindo faísca. Vi a galáxia branca na galáxia preta, eu vi o dia e a noite se encontrar. Eu vi a luz da luz do preto dos seus olhos, quando o sertão no mar de flor escureceu. Sou paralelo, paralelo sobre a terra, eu só morre para a culpa que viveu. Eu vi o nome e a bala matadeira, eu vi o cão que meu sonho era eu. Ancora ben trovati a Suoni Paralleli, secondo break, dopo la pubblicità, un programma di approfondimento sulla musica a tutto tondo in onda sulle frequenze di Radio Città Focico 103.1 FM. Un salotto convivio tra musicisti e detti lavori e non solo, rivolto a soddisfare le curiosità che girano intorno al mondo della musica così come lo conosciamo. Chi vi parla è Antonino Barresi e ospite oggi della nostra trasmissione è Tiago Dazibao. Ancora benvenuto Tiago in questo secondo break di Suoni Paralleli. Abbiamo aperto la nostra trasmissione, è trascorso la prima parte della nostra puntata parlando un po' di tutto quello che riguardava il mix tra i generi musicali e quelle che erano un po' le tue fondamenta dal punto di vista del DNA musicale. Stavamo ascoltando questo brano fantastico un attimo prima del break pubblicitario di Tom Zale. Io l'ho lanciato nominandolo Chic Chique, in realtà mi dicevi che poi in brasiliano si dice Chic Chique, quindi per correzione mi sembrava giusto farlo, no? Giusto, ce la vuoi pronunciare esattamente? Chic Chique, ok, benissimo. E da Tom Zale veramente riprendiamo il discorso su questa miscela delle influenze e del come in realtà questa miscela abbia portato anche nel tuo clan festino ad avere una caratterizzazione molto importante nella panorama della world music. Quanto credi che davvero sia stato importante poi andare per te musicista a riscoprire, no, il tuo DNA, la tua origine culturale e musicale in questo senso? Pensi che sia stato determinante per Clan Festino, per il suono di Clan Festino? Per il suono di Clan Festino credo di sì, anche se appunto ti dicevo quelli sono più sono dei momenti musicali che sono scritti in diversi anni, no? Quindi sono un po' biografici e sono influenzati ovviamente da tutta la musica che ascolti in generale, non solo dalla world music, ma magari ti svegli la mattina con un loop di una musica che non c'entra niente, musica classica oppure qualcosa, un riff di una musica rumena piuttosto che Balkan. Sì, Balkan. Poi tutto in realtà molto, ho sentito anche molto hip hop, giusto, nel tuo lavoro, è vero? Si sente anche quella parte di beat di New York, c'è qualcosa, no? C'è qualcosa che richiama anche un po' di hip hop degli anni 90 sicuramente. Sì, diciamo che i tuoi producer hanno anche dei però è basata molto su questa idea appunto di fare un po' di mashup anche, no? Di unire, certo, diffondere proprio diversi stili musicali cercando di valorizzarne appunto l'incontro, la fusione, certo. Il modo di far suonare delle cose magari con un accento brasiliano in italiano, di mischiare un po' le lingue. Cioè, di giocare anche un po' con questa parte di rap che si sta così tanto sviluppando, che sta usando molto bene anche tutti gli slang, e quindi tutti gli accenti possono essere anche messi in mezzo e perché no, si possono creare veramente nuove forme dal punto di vista anche degli slang, perché no? Anzi, sono quelli che ultimamente funzionano meglio forse, giusto? Gli slang in portoghese, noi la giri anche, no? Certo. Viene denominata così. Portarlo a metà tra il portoghese e l'italiano non sarebbe male, perché ha i nuovi modi di dire, i nuovi bellavezze del futuro. Esatto. È bello continuare a coltivare questa cosa comunque in entrambi le lingue. Senti, e di metterle insieme. Prima di andare a far ascoltare un altro brano, io volevo che lo presentassi tu come secondo brano, sempre tratto dall'EP Clan Festino. Cosa facciamo ascoltare ai nostri ascoltatori di Radio Città Fucico? Facciamo ascoltare Mariachi Samurai con DJ Farrapo, così facciamo ascoltare qualcosa. Bene, sai che anche DJ Farrapo è già stato ospite a Suoni Paralleli, con lui abbiamo anche molto molto parlato di queste influenze, di quanto siano importanti nella produzione, anche per lui che è un pianista. Mi fa piacere riprendere il discorso, questa è diciamo Mariachi una Samurai. Composizione in cui Tiago De Zibao collabora con DJ Farrapo, questo è sempre Suoni Paralleli. Durante Cristo, hã? 17 anos depois da morte de Tim Maia, 3 anos depois da fim do mundo Maia, Mariachi Samurai, DJ Farrapo on the beach, more fire, fire. Vai mariachi, mariachi samurai. Vai mariachi, samurai. A Uruguai para quê? Paraguai. Original ganja ninja mariachi style. Yo, birimbau tocó, yo conocí kimono. Mariachi samurai jugando coro. Yo, mucho flow, never stop, evergreen, never slow. That's the border motomo, arigato. 3 años después, el fin del mundo maya. Mariachi samurai no Sahara. No me ayudó desesperadamente en una praia. Beleza sayonara, the original mariachi samba brain. Vai mariachi, mariachi samurai. Vai mariachi, samurai. A Uruguay para qué? Paraguay. A Uruguay para qué? Paraguay. Vai mariachi, mariachi samurai. Vai mariachi, samurai. A Uruguay para qué? Paraguay. Aboriginal, original style. El arte samurai de Japón a México. Katana como guitarra para el mariachi es arte. El arte de quien de la vida de luchador, macramé, dictadura, fatture box. Erba buena non contamina aria, come Fukushima, Hiroshima, Kyoto, gasolina cara. Negra linda, black power, sei mascara, oh bellezza, sayonara. Madonna, if you don't love me. Vai Maria C, samurai. Vai Maria C, samurai. A Uruguay para che? Paraguay. A Uruguay para che? Paraguay. Vai Maria C, samurai. Vai Maria C, samurai. A Uruguay para che? Paraguay. Nakatraka desi sono passa baba di baba kataka fuki contrataka tsunami chego san da uma tapa na macaca fuma sano é de graça bubuca é bom pra cuca nunca para pulmão do kung fu bruce é de las bye bye aboriginal original origami to the right team terceiro mundo e um segundo viro frixi papela chique no wikileaks e sem elipse se sirve pa un apocalipse. Vai Maria ci samurai. Vai Maria ci samurai. A Uruguay para che? Paraguay. A Uruguay para che? Paraguay. Vai Maria ci samurai. Vai Maria ci samurai. A Uruguay para che? Paraguay. Original ninja chinga Maria ci style. Nakatraka desi sono passa baba di babaca. Taca fogo e contra-ataca tsunami Diego San. Dá uma tapa na macaca, fumaça não é de graça. Burbuca é bom pra cuca, nunca para pulmão. Eu kung fu Bruce Lee, na tela spike. Cabo original, original origami, do the right thing. Terceiro mundo em um segundo viro bricks. Favela chique no Wikileaks sem elipse. Se cine pa in apocalipse. Se cine pa in apocalipse. Se cine pa in apocalipse. Se cine pa in apocalipse. Se cine pa in apocalipse. Se cine pa in apocalipse. Cine pa un apocalipse, se la rule vi du rap. Pa, pa, pa. Questa era Mariachi Samurai, tratto da Clan Festino di Tiago da Zibao. Questi suoni paralleli, ancora benvenuti, benvenuto Tiago da Zibao. È davvero un piacere averti qui oggi in questa puntata in cui il sound del Sud America e l'electro si sono spesso incontrati in sonorità che insomma tendono a scrivere questi nuovi linguaggi, questi nuovi suoni paralleli. E per noi è davvero un piacere spesso chiedere, anche come curiosità, non solo qual è l'origine del brano, qual è il concept che si lega alla composizione del brano che magari andiamo ad ascoltare degli artisti che vengono a presentare i loro lavori in radio, ma anche spesso e volentieri quali sono le nuove tendenze, qual è la musica che i nostri amici stanno ascoltando nell'ultimo periodo. Quindi anche a te ti porgo questa domanda. La gente si può chiedere, nell'ambito della tua produzione, dopo aver ascoltato un po' come imposti i tuoi lavori dal punto di vista anche discografico, mi piace chiedermi cosa ascolti normalmente, che ne so, nella pausa pranzo, mentre ti fai un caffè la mattina, cosa vado ad ascoltare Tiago da Zibao? Sentiamo. Allora, io ascolto musica, parecchia musica da San Paolo, che è un po' il mio punto di riferimento per la musica americana, stranamente, perché comunque c'è molto hip hop, ed è una scuola che è riuscita appunto a far suonare la musica brasiliana, come la musica comunque di New York, o la musica sia della West che della East Coast, comunque entrambi gli stili, Miami Bass, ti sembra veramente di stare in Brooklyn, eccetera, e è veramente una quantità di artisti incredibili. Ci sono Criolo, Emicida, Rodrigo G, Kurumi, Usai Pins, che sono anche molto bravi. Sì, poi ci sono artisti che stanno arrivando anche in Europa, in realtà. Artisti, sì, certamente, ma anche artisti che sono scomparsi come Tamara Sunsam, tutta una bella guardia di San Paolo, Sabotage, artisti anche morti molto giovani dell'underground, diciamo, che negli ultimi anni hanno veramente rivoluzionato la musica brasiliana e hanno fatto diventare il rap attuale, in testa a tutte le classifiche, e nonostante continui comunque ad avere una matrice molto underground e a portare in giro ancora un messaggio di verità. È curioso come ascolti verità, comunque è un genere musicale molto attuale, no? Perché ti interessa molto questa contaminazione e attualizzazione del genere musicale, però di San Paolo, per la serie, resti comunque legato al DNA. Esatto, sì, perché preferisco comunque portare sempre un qualcosa che non c'è, no? Nel posto dove sono a livello musicale, quindi oltre all'influenza locale, che apprezzo molto, eccetera, comunque sono connesso con altre dimensioni musicali, no? Così come, certo, la scena, appunto, è comprensibile anche dal punto di vista della creatività, quindi ci sta tutta. Certo, sì. Poi per non perdere comunque questa cosa della lingua portoghese, che è comunque una lingua che è molto mistica, molto... Assolutamente, anche io la trovo molto musicale, molto. Ed è sempre stata considerata un po' la stregua del napoletano, una lingua molto ritmica e melodica che permette una facilità di linguaggio anche per il rap, insomma, diciamo, facilita molto, certo. A differenza magari, che ne so, di lingue un po' più dure, diciamo che il portoghese aiuta anche armonicamente, ritmicamente. Io direi a questo punto, Tiago, di andare a far ascoltare qualcosa a proposito del nostro discorso. Parlavamo prima dei Baiana System, stiamo per lanciare una delle loro composizioni che un po' forse va a riprendere quello che stavamo dicendo anche noi in questo momento. Andiamo ad ascoltarlo qui sempre a Suoni Paralleli su Radio Città Fucico. Questo è Baiana System, questa è Terapia. È terapia, oh sa terapia, è terapia, oh sa terapia, è terapia, oh sa terapia, è terapia, oh sa terapia, a mais de 1000 decibéis virado numa goteira. Mais 1000 decibéis. Questa era Terapia Baiana System, questi suoni paralleli. Siamo arrivati un po' alla fine della nostra puntata, è stata una puntata in cui ancora il filo conduttore, l'argomento principe è stato il mix di culture e generi musicali. Ospite graditissimo di questa puntata è il mister Tiago da Zibao, con cui abbiamo parlato e fatto ascoltare moltissimo della radice sia brasiliana che ha portato anche alla composizione di alcune track del suo ultimo CD Clan Festino. Ancora grazie di essere stato con noi, Tiago, è stato un vero piacere averti qui a Suoni Paralleli. Piacere tutto mio, grazie per l'invito Antonino e insomma siamo sempre grazie a te e speriamo di trovarci ancora molto presto a riparlare di queste tue influenze, ancora a parlare di Sud America, del Sud America che si mischia con l'electro. E un particolare ringraziamento va a Mr. Stefano Arcero che in audio 3D binaurale registra questa puntata e ha anche registrato la prossima e continuerà a registrare le prossime avventure di Suoni Paralleli. E un grazie al coordinamento tecnico di Gino Di Fazio. Ci vediamo sabato prossimo sempre all'1:30, sempre su Radio Fujiko 103.1 FM, sempre su Suoni Paralleli. Samba que é misto de maracatu, samba de preto.